La battaglia sindacale intorno all'Alitalia anche ieri, per il quarto giorno consecutivo, ha creato disagi ai passeggeri con molti voli cancellati a Roma e Milano. Sul fronte CAI, fonti sindacali annunciano a partire da martedì le lettere per l'assunzione di 12.639 lavoratori che entreranno nella nuova Alitalia, mentre la compagnia aerea italiana procederà alla chiamata individuale dei dipendenti di Alitalia e di Air One. Ma l'ultima ondata di scioperi aerei non è stata indolore, infatti da una parte sono aumentati i passeggeri che si sono rivolti ad altre compagnie, dall'altra sono già una decina gli esposti presentati alla Polaria per i disagi subiti e per avere chiarimenti sulla soppressione di alcuni voli. Anche il commissario europeo ai trasporti, Antonio Tajani, ha esortato i viaggiatori danneggiati a farsi avanti, perché, sostiene, gli scioperi selvaggi di una parte possono essere sanzionati anche dall'Unione Europea. Da segnalare anche la decisione dell'ENAC, l'ente aviazione civile, che intende multare l'Italia con 255.000 euro per i disagi provocati il 10 novembre, mentre il garante per gli scioperi nei servizi pubblici, Antonio Martone, denuncia la violazione delle regole e chiede la sospensione dello sciopero bianco, che prevede la rigida applicazione delle norme del regolamento. Il problema a questo punto è di ordine pubblico, è il parere del ministro del welfare, Maurizio Sacconi, mentre per il segretario della CGIL, Guglielmo Epifani, tutti gli scioperi fatti contro i cittadini senza rispettare le leggi sono illegali e sbagliati. Paolo Panceri, GR24, Il Sole 24 Ore.